che non regalati, l'abbiamo tatuati. Vuoi girare il mondo, abbiamo i conti vuoti. Per fare tutto ciò faccio salti carpiati. A fine settimana siamo ubriachi. Ti porterei la luna, ti comprerei gioielli, vestiti da bagnara, ma non possiamo averli. Sta vita è una puttana, da sempre te lo dico. Son cresciuto per strada, ma è grazie a te che vivo. Sta vita da ribelli l'abbiamo scelta, e non è colpa tua se a volte mi sembra una merda. Mi sono sconvolto come un cane, ma non te l'ho mai detto per non farti vergognare. Queste strade io le ho amate, ma mai quanto te. Mi sento un vuoto dentro se non sei con me. Sono tornata a casa con i segni delle botte. Caramba, sotto casa tu piangi tutta la notte. E non è semplice credere nel destino già scritto. E punto all'apice, ci arriverò, non sarò mai sconfitto. Ti asciugherò le lacrime, ripulirò ogni crimine. E ti assicuro che quella rosa sboccerà. Fiori non te ne ho regalati, l'abbiamo tatuati. Ho toccato il fondo tra i bicchieri vuoti. Sono cresciuto con un padre troppo lontano, ma tu eri vicina anche quando urlavo. Sta vita l'ho passata male, ma non è tardi per cambiare. Ti comprerei una casa al mare, ma sembra che il quartiere non si può lasciare. Il cielo è troppo nero, le stelle sono lontane. Ho passato ogni istante a guardare i grandi. Ho pensato ogni istante a come fare i sacchi. Vorrei portarti dei diamanti, ti porto dei contanti, ma non mi chiedere come li ho fatti. Ho troppi problemi, me li tengo dentro. Pensare a tuo padre è sempre un patimento. Tengo sentimenti ma non l'esterno, lo sai. Ma hanno insegnato che un uomo non piange mai. Non piange mai. Non piange mai. Mi hanno insegnato che un uomo non piange mai. E non è semplice credere nel destino già scritto. E punto all'apice, ci arriverò, non sarò mai sconfitto. Ti asciugherò le lacrime, ripulirò ogni crimine. E ti assicuro che quella rosa sboccerà.